Avventurieri! Il mago sta alzando le mani per scagliare il suo primo incantesimo. Sembra stia formando una sfera di ghiaccio. Davanti a voi ci sono tre strumenti, ma solo uno è in grado di trasmettere il calore abbastanza velocemente da neutralizzare il ghiaccio in tempo. Ecco cosa avete a disposizione. Un panno di lana, una lastra di metallo, un blocco di legno. Quale di questi oggetti volete utilizzare?